Perfetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Da Aleppo inizia il ritiro dei miliziani e l'evacuazione di feriti e civili. Spari su alcuni convogli in fuga, almeno una vittima. Le ONG chiedono subito osservatori ONU sul terreno. Avvio di giornata in forte calo per Mediaset, adesso c'è dell'1,5% dopo che Vivendi è salita al 20% del capitale. La Procura di Milano ha aperto un'indagine per aggiottaggio. Primo Consiglio europeo per Gentiloni da Premier, al centro l'immigrazione, non siamo soddisfatti, dice il capo del governo della discussione sul regolamento di Dublino. Annullato il concorso per 559 allievi di polizia per alto rischio irregolarità, più di 190, molti provenienti da Aversa, avevano risposto correttamente al 100% delle domande. Terzo giorno di sciopero selvaggio degli autisti degli autobus della provincia di Genova. Il sindaco Doria attacca cittadini come ostaggi. Lotta al cosiddetto biscotto. La FIFA pensa ad eliminare i pareggi dai gironi dei mondiali. Le partite avranno comunque un vincitore che si deciderà ai rigori. Una buona giornata da Simone Spezia. Bentornati ad Effetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp. Effetto Giorno @radio24.it se ci volete scrivere. In apertura dunque parliamo di quello che sta accadendo ad Aleppo. Sono centinaia le persone ferme per strada, ammassate in attesa di uscire da Aleppo Est. L'evacuazione dell'enclave occupata dai miliziani che si oppongono al presidente siriano Assad è cominciata questa mattina con molte difficoltà. Intanto sono in cammino, come previsto nell'accordo raggiunto in nottata, i 5.000 miliziani che stanno abbandonando i quartieri attraversando un corridoio umanitario di 21 chilometri. Saranno i soldati russi a condurre fuori da Aleppo fino a Idlib, roccaforte dell'ISIS, i combattenti ribelli, eseguendo ordini del presidente Putin. La Russia userà droni per monitorare il viaggio, che avverrà su 20 pullman accompagnati da ambulanze attraverso un corridoio umanitario. Questo però non esclude colpi di scena. Questa mattina forze filo Assad avrebbero infatti colpito un convoglio con a bordo civili feriti che venivano trasportati via. Comunque la si guardi, questa storia è terribile. Assieme ai 5.000 combattenti, da Aleppo Est andranno via anche 9.000 civili. Molte persone sono disperate, non sanno dove andare e che sarà della loro vita già martoriata. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La scalata a Mediaset da parte di Vivendi, il punto di oggi. Deborah Rosciani, buongiorno. Buongiorno, allora intanto partiamo con la prestazione del titolo, in questo momento in ribasso dell'1,60%. Con il calo di oggi per broker e analisti si apre una tregua, pur sempre armata, nell'appassionante guerra che si è scatenata intorno al gruppo. Il titolo stamattina aveva aperto in rosso profondo fino a meno 9%. Vivendi, ricordiamolo, ieri sera ha annunciato il raggiungimento del target del 20% del capitale di Cologno Monzese. Era un obiettivo previsto per Natale, raggiunto molto prima. La domanda a questo punto è: dove arriverà il finanziere bretone Vincent Bolloré? Siamo all'inizio di una scalata vera e propria a Mediaset. A questo punto le carte però devono essere messe in tavola, oppure si tratta di una strategia per costringere Fininvest ad aprirsi ad un'alleanza di più ampio respiro? Di fatto la famiglia Berlusconi sta mettendo in campo ogni iniziativa possibile per difendere il gruppo da questa iniziativa ostile. C'è l'esposto per manipolazione di mercato. Secondo il Sole 24 Ore di oggi, il Biscione potrebbe anche chiedere un provvedimento d'urgenza per bloccare i diritti di voto di Vivendi. E poi ci sono le iniziative dirette sul mercato. La holding della famiglia Berlusconi sta sfruttando tutti gli spazi che ci sono per arrotondare la sua partecipazione fino al 42,7% dei diritti di voto. Una strada è che Mediaset continui ad acquistare azioni proprie fino al 10% del capitale, dall'attuale 3,8%. Infine, Fininvest può acquistare, ma lo potrà fare soltanto da aprile prossimo, un ulteriore 5% della società, e tutto questo senza incorrere nell'obbligo di offerta pubblica d'acquisto. Quindi, Simone, lo scenario è super fluido. Quello più probabile è l'avvio di una negoziazione con Fininvest su Mediaset e il progetto di creare un gruppo media in Sud Europa. Quello che va segnalato oggi, prima di chiudere, è che un po' di speculazione si è spostata su Telecom, che oggi cresce molto in borsa, più di 3 punti percentuali, e che potrebbe diventare anche il target di acquisti da parte di Fininvest come manovra difensiva contro l'avanzata in Mediaset, senza dimenticare che la stessa Vivendi negli ultimi giorni è salita già ad oltre il 24% del capitale di Telecom. Quindi molto movimento, ci sentiremo prossimamente per altre novità. E ti ringrazio, grazie dunque a Deborah Rosciani per questo aggiornamento. Ci sono ovviamente le reazioni, quelle politiche, anche quelle della magistratura. La scalata di Vivendi a Mediaset approda a Palazzo di Giustizia. La Procura della Repubblica di Milano ha aperto un'indagine per aggiotaggio. Il fascicolo al momento è a carico di ignoti, un atto dovuto dopo l'esposto presentato ieri in procura dai legali Mediaset e inviato per conoscenza anche alla Consob. Sul fronte politico il governo italiano non ha dubbi, è un opo ostile e vigilerà. La scalata lanciata da Bollorea a Mediaset, uno dei più grandi gruppi media italiani, dice il ministro dell'Industria Carlo Calenda, è del tutto inaspettata. Un'operazione che non sembra il modo più appropriato di procedere per rafforzare la propria presenza in Italia, argomenta Calenda. E quando si tratta di un'azienda che opera in un settore strategico, quello dei media, aggiunge, il modo in cui si procede non è irrilevante. Per il leader della Lega, Matteo Salvini, nessuno ha mosso un dito per difendere Mediaset, un'azienda patrimonio di tutti gli italiani. Teresa Trillo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Una notizia importante appena battuta dalle agenzie: perquisizioni ci sono state ieri in Campidoglio per acquisire tutti i documenti sulle assunzioni e le nomine effettuate dalla sindaca di Roma Virginia Raggi. La notizia è riportata da vari quotidiani, in particolare sarebbero state acquisite carte relative alla nomina di Salvatore Romeo, capo della segreteria politica della sindaca, di Carla Raineri, ex capo di gabinetto che si è rimessa a fine agosto, e Raffaele Marra, ora al Dipartimento del Personale. L'inchiesta della procura è partita da un esposto di Fratelli d'Italia. Vedremo come evolverà la vicenda e naturalmente proveremo anche ad aggiornarvi nel corso della trasmissione. Si parlava di finanza, ieri è stata una giornata importante anche per le decisioni della Federal Reserve. Svolta storica ieri a Wall Street: la Federal Reserve ha annunciato il primo rialzo dei tassi di interesse dopo la svolta del dicembre 2015, quando ci fu il primo aumento dal giugno del 2006. Se non che dopo quella decisione di aumentare i tassi, la Federal Reserve si bloccò. Questa volta invece l'aumento dei tassi durerà nel corso del 2017. Ieri c'è stato un aumento di 25 punti base, siamo passati a una fluttuazione dei tassi sui fondi federali fra lo 0,5 e lo 0,75%, ma quel che più conta è che la Yellen ha annunciato che nel corso del 2017 ci saranno altri 3 aumenti. Il segnale al mercato a questo punto è molto chiaro: la borsa si è indebolita, i rendimenti sul mercato obbligazionario sono schizzati al rialzo e il dollaro si è rafforzato. Nessuno si aspettava una tale chiarezza da parte della Yellen sul numero di aumenti da attendersi nel corso del 2017. Mario Pratero, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New York. E siamo al punto politico di giornata. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. Il governo Gentiloni parte dai 169 voti alla fiducia ricevuti ieri al Senato, una maggioranza che in questi numeri non può lasciare tranquillo l'esecutivo e che non vede dentro al momento i verdiniani, che in passato durante l'esecutivo Renzi sono stati più di una stampella in alcuni passaggi critici della legislatura. Il dibattito allora di queste ore è se e quando potrà essere ricostruito un rapporto con questa forza politica, se di fatto Ala rientrerà nella partita dei sottosegretari. Altra domanda, Simone, che continua ad essere posta, è quanto durerà il governo. Ieri la polemica alimentata dalle parole del ministro del lavoro. Secondo Poletti non si arriverebbe a votare il referendum sul Jobs Act a giugno perché l'esecutivo cadrebbe prima. Questo comunque l'auspicio di gran parte delle opposizioni, che chiedono un ritorno in tempi rapidi alle urne, così 5 Stelle, così Salvini e Meloni. Ma con quale legge elettorale si andrebbe a votare resta il vero dilemma, da qui l'appello di oggi della presidente della Camera Boldrini perché il Parlamento lavori subito a questo tema. Sentiamo le sue parole. Io penso che ci sono due esigenze che si ravvedono. Dare peso alla rappresentanza, ma poi c'è anche l'esigenza di governabilità. Tutte e due sono cose, espressioni, come dire, significative, e tutte e due queste esigenze sono valide, devono trovare una sintesi. Quindi io penso che su questo bisognerà lavorare. Quando iniziare? Il Parlamento potrebbe iniziare da subito. Al primo posto dell'agenda del governo, ha detto ancora la Boldrini, incontrando la stampa parlamentare, vi deve essere la questione sociale. È tutto, linea allo studio. Grazie dunque a Vincenzo Miglietta. Oggi, tra l'altro, primo consiglio europeo da Premier per Gentiloni. Migranti, difesa, Ucraina, economia e informalmente anche la Brexit e l'elezione del nuovo presidente del Parlamento europeo. Tanti i dossier sul tavolo di questo vertice, che rappresenta il debutto da Premier del nuovo ministro italiano Paolo Gentiloni. Prima volta che ho l'onore di rappresentare l'Italia al Consiglio europeo e oggi la questione principale che discuteremo sarà la questione dell'immigrazione. Da questo punto di vista l'Italia è molto esigente perché non siamo ancora soddisfatti della discussione sul regolamento di Dublino. Si parte con l'immigrazione dunque per ribadire che nonostante i malumori l'accordo con la Turchia funziona e c'è la volontà di mantenerlo. Poi il punto sui cosiddetti compact, e cioè gli accordi che l'Europa sta facendo con alcuni paesi, investimenti in cambio di aiuti a frenare le partenze, mentre la riforma del regolamento di Dublino potrebbe anche slittare al prossimo semestre quando la presidenza di turno passerà a Malta, paese che sposa la linea dell'Italia, quella cioè che vorrebbe un impegno formale di tutti i paesi a ricollocare i migranti e non una solidarietà flessibile sulla quale puntano invece i paesi dell'Est. E ancora sul tavolo il rinnovo delle sanzioni alla Russia per la vicenda ucraina, mentre dovrebbe arrivare una bozza di risoluzione di condanna per ciò che sta accadendo in Siria e anche un disco verde al pacchetto sulla difesa comune. A chiudere i lavori la cena 27 sulla Brexit. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore. A proposito di immigrazione, che come avete sentito sarà al centro del vertice europeo, dopo mesi di discussioni c'è l'accordo fra il Viminale e l'Associazione dei Comuni sui migranti. I comuni che vorranno aderire su base volontaria allo SPRAR, il sistema di collocamento appunto all'interno dei comuni, avranno la garanzia di una sorta di clausola di salvaguardia. Parliamo di circa 2,5 migranti ogni 1000 abitanti, con una perequazione per comuni più piccoli e capoluoghi di città metropolitane. Valentina Furlanetto ha sentito il presidente dell'ANCI e sindaco di Bari, Antonio De Caro. Con questo accordo, dove i sindaci in maniera volontaria possono aderire al sistema SPRAR, c'è la possibilità attraverso lo SPRAR di avere una quota di migranti pari a 2,5 per ogni 1000 abitanti. Quindi in quel comune di 3.200 abitanti ci saranno 8 migranti. Credo che 8 migranti in un sistema SPRAR in una comunità di 3.200 persone non creano problemi a nessuno. Il sindaco in questa maniera ottiene un incentivo dal punto di vista economico e contemporaneamente, attraverso una clausola di salvaguardia, viene garantito il fatto che viene evitato un ulteriore flusso magari massivo e incontrollato di migranti all'interno dello stesso comune. Per noi questo è importante perché il sindaco diventa l'attore principale di questo percorso che è di accoglienza, ma che spero possa diventare anche di integrazione e di inclusione con il tempo. Sono stati sottratti i dati di un miliardo, di account di Yahoo. Nomi, indirizzi di posta elettronica, numeri di telefono, date di nascita, password, domande e risposte di sicurezza, sia criptate che non. I dati di circa 1 miliardo di utenti, rubati, trafugati da hacker ai danni di Yahoo e soprattutto dei suoi clienti. Da Sunnyvale fanno sapere che i dati associati a carte di credito e informazioni legate a conti correnti bancari sono rimasti al sicuro. Detto questo, nell'azienda californiana sembra essere stata aperta la più grande falla informatica di tutti i tempi. L'attacco risale al 2013 e sarebbe dunque precedente a quello avvenuto alla fine del 2014, quando gli utenti colpiti furono 500.000. La questione sicurezza per l'azienda guidata da Marissa Meyer rischia di diventare più che un serio problema, con riflessi non solo sulla fiducia degli utenti ma anche sulle future cessioni concordate con Verizon. L'intesa da 4,8 miliardi di dollari decisa lo scorso luglio potrebbe saltare o essere rivista in termini di prezzo. In gioco ci sono siti come Yahoo Sport, Yahoo Notizie, Yahoo Finanza, ma anche il motore di ricerca omonimo, il servizio di email, la piattaforma per immagini Flickr e il blog Tumblr. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Più titoli, più biglietti staccati, sale più piene dopo i tempi più bui della crisi e meglio di un anno fa, quando c'era da fare i conti con l'allarme rosso del terrorismo. Lo spettacolo in Italia sembra timidamente rifiatare, e se già nel 2015 i segnali apparivano incoraggianti, la ripresa della voglia degli italiani di investire nel tempo libero sembra confermarsi nel primo semestre del 2016, con percentuali incoraggianti per tutti i settori, in prima fila proprio il cinema. Gaetano Blandini, direttore generale della SIAE, al microfono di Gigi Donelli. Sicuramente fotografano il fatto che il paese, almeno dal lato del tempo libero, ha ritrovato un briciolo di fiducia, perché è necessario, no, per investire nel tempo libero, nel cinema, nella musica, nel teatro, nelle attività di sport. Ovviamente quelle attività che lei citava, diciamo chiamiamole tra virgolette di marketing, il biglietto del cinema a 2 euro, altre promozioni eccetera eccetera, certamente hanno contribuito, perché i dati del cinema in particolare lo dimostrano, ma meno male, mi viene da dire, perché bisogna attuare delle attività, delle operazioni anche di marketing per dare del maggior appeal e consentire al pubblico, alla gente, ai cittadini che non hanno tutti questi denari da spendere, di avere voglia di spenderli per vedere un buon film, per sentire un buon concerto, per andare a vedere una bella messa in scena teatrale. Per chi ha ancora memoria della schedina, della vecchia schedina, quella con 1x2, mettiamola così, il calcio perde il suo X factor. Guerra al biscotto, o almeno al pareggio, è quella che la FIFA vuol varare al più presto, magari già dal prossimo congresso del 9 gennaio. Data centrale perché il presidente Infantino, il successore di Blatter, vuole allargare il mondiale da 32 a 48 finaliste, magari già da Qatar 2022. La formula, 16 gironi da 3 squadre in cui si qualificano le prime due, poi eliminazione diretta dai sedicesimi alla finale. Ecco allora l'esigenza di bandire i pareggi nei gironi della prima fase, ricorrendo sempre ai rigori per determinare un vincitore. Niente pareggi, pensa la FIFA, minore possibilità di partite pilotate e taciti accordi, quindi meno biscotti in poche parole. Rivoluzione che, se e quando avverrà, stravolgerà la tattica. Le big attaccheranno di più, le squadre materasso faranno le barricate puntando ai rigori, senza contare che ha aperto il dibattito sul valore, 3 o 2 punti, della vittoria ai penalty. Staremo a vedere. Quel che è certo è che ad applaudire già sono le TV e i tifosi nordamericani e asiatici, da sempre allergici al concetto stesso di pareggio. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso ci fermiamo, ci prendiamo come sempre una pausa per sentire cosa succede sulle strade e poi iniziamo il nostro giro per l'Italia. Partiremo con Genova, dove è in corso uno sciopero selvaggio degli autisti e degli autobus che coprono la provincia, con molti problemi ovviamente per i cittadini, non hanno rispettato la precettazione arrivata dal prefetto. E poi ci occuperemo di questo concorso di polizia che è stato annullato, dove insomma c'erano parecchi sospetti. Il concorso di polizia, pensate un po', quello per la polizia, con 180 persone che hanno risposto al 100% delle domande, un fatto statisticamente incredibile. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato dell'evacuazione che è in corso ad Aleppo in Siria, abbiamo parlato della vicenda Mediaset, abbiamo parlato del Consiglio europeo, il primo per Gentiloni da Premier, abbiamo parlato, come avete sentito, di calcio e della FIFA e ci siamo occupati brevemente della notizia degli ultimi minuti. La ricordo per chi si fosse messo in ascolto solamente adesso, che ieri c'è stata la Guardia di Finanza che è entrata in Campidoglio, ha effettuato una serie di perquisizioni. Gli agenti avrebbero acquisito atti di nomine e determine avvenute nei primi mesi dell'amministrazione Raggi. Ci sarebbe un esposto di Fratelli d'Italia dal quale è partito tutto questo. Dovremmo riuscire a parlarne più approfonditamente tra poco. Saluto intanto, e per il nostro giro per l'Italia tocchiamo innanzitutto Genova, Andrea Gamba, che è sindacalista della CGIL. Buongiorno Gamba, benvenuto. Buongiorno, grazie. Allora, parliamo di questo sciopero selvaggio che dell'ATP, che è l'azienda di fatto del trasporto nella provincia, le cosiddette corriere, quelle che appunto portano verso la città e dalla città nell'area vasta, nell'area metropolitana di Genova e nella provincia. Vi siete fermati nonostante il prefetto vi avesse precettato e nonostante il sindaco dica state tenendo in ostaggio i cittadini. Ma in verità i cittadini sono in ostaggio del sindaco, purtroppo devo dire anche da parecchi anni. Vabbè, però questa gamba è una valutazione, questa è una valutazione politica, diciamo. Sì, certo. Questo, insomma. No, ma lo dico anche dai lettori del centro-sinistra. Comunque, il problema qua sostanzialmente è che abbiamo una situazione che i lavoratori non ritengono più sopportabile da diverso tempo. Questa è un'azienda che, grazie allo stipendio dei lavoratori che gli è stato tagliato nel 2013, hanno consentito che questa azienda non fallisse, che nel periodo di concordato preventivo, quindi di salvataggio dell'azienda, i lavoratori ci lasciassero il 30% dell'integrativo, cosa che doveva essere recuperata all'uscita del concordato preventivo, quando l'azienda veniva ripulita da tutti i debiti. Oggi i lavoratori quel 30%. Ma come sono i conti dell'azienda adesso? Ma guardi, il concordato preventivo è uscito all'azienda con due bilanci del concordato preventivo in positivo, lieve positivo, parliamo di qualche decina di migliaia di euro su un'azienda che ha un costo di 32-33 milioni di euro all'anno. Mentre per quest'anno, quando sono entrati i privati, hanno già annunciato che c'è un passivo di un primo circa un milione di euro, oggi ci dicono 680.000 però, euro. Anche per, qui però Gamba, mi scusi, qua, però qua c'è un tema di rispetto delle leggi sullo sciopero, perché ha capito che se andiamo così, poi i cittadini genovesi oggettivamente si ritrovano in condizioni difficili, i cittadini della provincia soprattutto, magari pendolari, gente che deve partire da un paesino per arrivare in città per lavorare, no? C'è una legge sul diritto di sciopero, ma ci sono anche degli accordi che devono essere rispettati e non sono stati rispettati da diverso tempo. Ora, i lavoratori naturalmente sono consapevoli di quello che rischiano, non credo che siano dei folli, dei stupidi, che facciano delle azioni di proteste di questo genere, sapendo di dover comunque poi pagare delle multe, che sono multe molto salate. Ma la misura è colma, poi i lavoratori fino a un certo punto resistono e dopo quando... continuano a essere vessati, continuano a essere rispettati gli accordi, continuano a lasciarci 100 euro nette al mese sul proprio stipendio, incominciano a non poterne più e purtroppo manifestano con ripeto queste, però, con queste... però c'è anche un problema che riguarda i cittadini, no? Sì, poi i cittadini sicuramente hanno un problema. Oggi è il terzo giorno e ce ne scusiamo. Sono tre giorni. Tra altre cose, questo è anche un servizio che però dove il cittadino e l'utente ha pieno e diretto contatto con l'autista, cioè c'è proprio quasi a volte, molte volte, su molte linee, c'è proprio un rapporto anche personale, qui si riconoscono uno per uno gli utenti di questa di questo servizio, li conoscono molto bene e c'è una, diciamo, anche una grande, diciamo, da parte dei lavoratori una grande preoccupazione sicuramente, però il problema è un altro. Ma avete intenzione... Oggi sono tre giorni, ma 360, gli altri 362 giorni che i cittadini sono vivi. Senta Gamba, ma avete intenzione di proseguire? Avete intenzione di proseguire? Così chiudiamo. I lavoratori hanno fatto un'astensione volontaria dalla prestazione lavorativa. I lavoratori naturalmente si sono in questi giorni riuniti in assemblea e i lavoratori ci hanno dato mandato per proseguire non lo sciopero, perché proseguire una trattativa trattativa che non c'è, perché la testardaggine del sindaco di Genova non vuole incontrare le organizzazioni. Mi risponde però anche Gamba a questa domanda, per gentilezza: avete intenzione di proseguire oppure no? Cosa dicono i lavoratori? Che cosa vogliono fare? Vogliono fermarsi anche per i prossimi giorni? Decidono i lavoratori quando ci saranno delle risposte, con un accordo che era completo al 90% e mancava solo un pezzo, è proprio quello del recupero salariale, che tra le altre cose è finanziato. Domani le Corriere viaggiano oppure no? Non lo sappiamo. La ringrazio. Gamba, semmai la richiameremo o richiameremo altri suoi colleghi. Grazie Andrea Gamba, sindacalista della CGIL, per essere stato con noi. Tengo ancora un attimo in attesa l'avvocato Francesco Leone, che ci parlerà invece di questo concorso in polizia del quale vi dicevo pochi istanti fa, e saluto il collega Simone Canettieri del Messaggero, che spesso chiamiamo quando ci sono cose che riguardano il Campidoglio. Simone, ciao, buongiorno, bentornato ai nostri microfoni. Buongiorno a tutti. Dunque, per questa storia appena battuta dalle agenzie che in realtà hanno ripreso la vostra home page, quella del quotidiano La Repubblica, nella quale si racconta di questo arrivo del, non si è capito bene se della polizia o dei finanzieri, negli uffici del Campidoglio per acquisire dettagli sulle nomine della Raggi, è così, no? Sì, è la polizia giudiziaria, insomma, della Guardia di Finanza. Sono al centro, da quanto trapela, ci sono le nomine sempre della Raggi, che erano già state, diciamo, erano già entrate nel mirino dell'ANAC, le nomine della Raggi, quindi parliamo di quelle dello staff, sia quelle di Raffaele Marra che del fratello poi di Raffaele Marra, che è stato dirottato a capo del Dipartimento Turismo, nominato comunque formalmente dal fratello che è capo del personale, e quello di Salvatore Romeo, che è il segretario politico della sindaca e che diciamo nel corso dei mesi poi ha avuto dei vari cambiamenti di contratto. Diciamo che queste sono ore un po' particolari, perché da una parte c'è stato questo blitz, chiamiamolo così giornalisticamente, comunque diciamo la finanza che ha bussato qui in Campidoglio, dall'altro cioè, tiene ancora banco la questione di Paola Muraro, dell'avviso di garanzia a suo carico. Quindi adesso la Raggi ha appena terminato una conferenza stampa proprio per parlare di società partecipate, ma inevitabilmente le è stato chiesto anche, insomma, di dare conto di queste perquisizioni, e lei si è detta tranquilla di aspettare comunque gli esiti della magistratura, insomma, nel garantismo, insomma, da avvocato che la contraddistingue. Questo è un po' lo scenario. Questo è un po' lo scenario al momento. Allora, sì. Guarda, Simone, io ti ringrazio molto per questa pur breve cronaca. Vedremo come evolverà questa vicenda. Lo dico agli ascoltatori che già ci stanno scrivendo. Guardate che non è che la stiamo dando perché è il Movimento 5 Stelle. Smettiamola con questa storia. Non abbiamo paura a dire, perché qualche ascoltatore ce lo rimprovera, che ieri la Guardia di Finanza è stata anche nella sede del Sole 24 Ore per le consuete vicende, né a dire che ieri la Guardia di Finanza ha perquisito anche la Banca Popolare di Bari. Così facciamo il punto su dove è stata la Guardia di Finanza in queste ore e ci togliamo dai problemi politici. Avvocato Francesco Leone, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, il prefetto Gabrielli, capo della polizia, ha annullato questo concorso per 559 allievi agenti della polizia per quelle che sembrano essere una serie di irregolarità per le quali voi tra l'altro avevate fatto ricorso. Avvocato Leone, mi dà un'idea di quali erano queste irregolarità? Allora, noi avevamo fatto congiuntamente con la collega Simona Fell, avevamo fatto dei ricorsi per delle violazioni proprio del testo unico sui concorsi pubblici. Vi erano delle legittimità inserite nel bando e noi avevamo fatto un normale concorso amministrativo. Lanciando la campagna, però, i candidati ci hanno iniziato a mandare delle segnalazioni su delle stranezze. La più grande stranezza era che diciamo, tra le persone che non avevano sbagliato neanche una domanda, consideriamo che questo è un concorso pubblico dove non viene data neanche la banca dati ai candidati per potersi diciamo, preparare sul genere di domanda che dovranno affrontare. Quindi era un concorso, quindi non al si buio. Sa, un concorso non al buio, 80 domande, 100% 80, di risposte corrette. 194 candidati non hanno sbagliato neanche una domanda. Allora, e molti provenienti, mai una cosa di questo. Mai, come si diceva, statisticamente impossibile. E molti provenienti, sì, dalla stessa zona, dallo stesso paese? Sì, questa è un'altra singolarità. Questi geni sono tutti quanti più o meno campani e provengono dalla stessa zona della Campania. I giornalisti hanno scritto dell'Aversano. Potrebbe essere una coincidenza, però insomma una coincidenza molto strana. Una coincidenza abbastanza curiosa. Sì. Tra l'altro altri 140 hanno fatto un solo errore, o mi sbaglio, no? Sì, altri 140 hanno fatto solamente un errore, più in generale 767 hanno preso un voto almeno pari al 9, quindi voti altissimi. Consideri che venivano assunti i primi 900 in graduatoria, quindi se 767 hanno tra virgolette imbrogliato o comunque hanno preso un punteggio così alto, ci si rende conto che gli altri 14.000 insomma restavano a casa senza poter far nulla. Fortunatamente però, voi le segnalazioni che sono arrivate a noi come studio legale, ma anche a tanti altri studi, voi le segnalazioni fatte dai sindacati, voi comunque anche un tantam che si è andato sviluppando sui social network, i primi a segnalare e a denunciare i fatti sono stati candidati attraverso dei gruppi tematici sui social network. Evidentemente la Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo di indagini che oggi ha da un lato un suo effetto nell'annullamento da parte del capo della polizia del concorso, più in là sicuramente avrà un effetto su un campo più squisitamente penalistico attraverso un processo e poi chissà eventuali condanne. Una cosa è certa, la Procura ha delle prove che dimostrano che qualcuno si è venduto i quiz prima dell'inizio, diciamo, del concorso. La ringrazio, grazie all'avvocato Francesco Leone, appunto, che fa parte di un network di legali che si occupano di ricorsi proprio legati ai concorsi e numero chiuso. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede in borsa e poi riprendiamo il nostro giro per l'Italia e andiamo a Milano per una sentenza che farà un certo rumore e un precedente interessante. È successo che una donna ha avuto un incidente stradale, era incinta, il bambino è morto, il bambino che aveva in grembo è morto, 100.000 euro ha ricevuto per il potenziale rapporto perso. Parleremo con la sua avvocata tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti il punto, a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo, al microfono sempre Simone Spezia. I nostri titoli arrivano, arriva la finanza in Campidoglio, sotto inchiesta le nomine della giunta Raggi, gli investigatori sono arrivati in comune, a quanto pare si procede per abuso d'ufficio, indagine avviata dopo l'esposto presentato a quanto pare non da Fratelli d'Italia come avevamo detto inizialmente, ma dall'ex capo di gabinetto Carla Romana Raineri. Da Aleppo inizia il ritiro dei miliziani, l'evacuazione di feriti e civili, spari su alcuni convogli in fuga, almeno una vittima. Le ONG chiedono subito osservatori sul terreno. Avvio di giornata in forte calo per Mediaset, che poi ridimensiona le perdite dopo che Vivendi ha annunciato di essere arrivata al 20% del capitale. I 5 Stelle intervengono, non è strategica, nessun aiuto dal governo. Primo consiglio europeo da Gentiloni, per Gentiloni da Premier, al centro l'immigrazione, non siamo soddisfatti, dice, della discussione sul regolamento di Dublino. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo, proseguiamo il nostro giro per l'Italia andando a Milano per una sentenza di qualche giorno fa, a dire il vero, ma che emerge oggi con un racconto firmato come spesso su questi temi da Luigi Ferrarella sul Corriere della Sera, e riguarda un incidente stradale. Un incidente stradale nel quale una donna perde il bambino che portava in grembo, c'è un risarcimento per la disabilità della donna in seguito all'incidente, ma c'è anche un risarcimento ulteriore, una sorta di risarcimento morale per la perdita del bambino. Noi siamo in linea con l'avvocato della donna, che è Federica Pizzi. Buongiorno, benvenuta. Sì, buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno. Buongiorno. Un risarcimento da 100.000 euro. Per cosa? Che cosa dice il giudice? Allora, il giudice ha riconosciuto alla signora Moise, oltre al danno da invalidità permanente, quindi da danno biologico, in quanto lei comunque aveva subito anche notevoli danni a seguito di questo sinistro, un diritto per la mancata nascita del congiunto. Diciamo che già la Cassazione, l'orientamento giurisprudenziale in questi anni si era affermato sul riconoscimento di questo diritto al risarcimento, e la dottoressa, io in realtà noi siamo uno studio di Roma, comunque sì. La dottoressa Cassano Ciccuto del Tribunale di Milano, in maniera diciamo molto puntuale, abbastanza decisa e decisiva, ha confermato appunto questo diritto. È abbastanza innovativa come decisione. Lei ci diceva c'è una sentenza di Cassazione, però non è una decisione così frequente. Diciamo che c'è stata un'ultima sentenza, quella che poi ha fatto riferimento nell'ordinanza, perché poi si trattava di un processo diciamo sommario. Comunque la dottoressa parlava appunto di quella ultima del 2015. Sono state altre sentenze che avevano in qualche modo confermato, non più che confermato, avevano sostenuto il diritto della mamma, ma anche del padre al risarcimento per la mancata nascita del congiunto. Ne abbiamo una, diciamo quella più decisiva è stata quella del 2008, perché ne ha parlato la Cassazione, l'hanno sostenuta e confortata anche il Tribunale di Roma, il Tribunale di Cassino, quello di Mantova, sì. Eccetera eccetera. Diciamo che la dottoressa risarcimento per proprio. Il potenziale rapporto perso, dunque. Sì, diciamo che loro ha diritto, naturalmente questo deriva, è un rapporto proprio genitoriale, non rientra nel cosiddetto danno morale del soggetto, quanto più che altro proprio, oltre che quello naturalmente gli viene riconosciuto anche quello, ma proprio la perdita della genitorialità. Naturalmente poi questo dato e questo risarcimento va ad essere parametrato in base alla anzianità del feto. In questo caso sì. Purtroppo la signora Moise ha perso il bambino bambino alla 37esima o 38esima settimana, quindi quasi a scadenza, che pesava 4,8 kg, quindi quasi a scadenza sostanzialmente, già formata. Certo, certo. Il consulente incaricato dal giudice ha anche confermato che comunque l'evento dannoso, l'incidente di per sé è stata esclusiva causa, per cui la CICUTO ha dato una valutazione che è una valutazione congrua rispetto a quello che è avvenuto. La ringrazio. Grazie Federica Pizzi, avvocato, per essere stata con noi. A chiudere, abbiamo un paio di minuti per parlare con Roberto Traverso e ritorniamo a Genova, segretario provinciale del SIAP, che è un sindacato di polizia. Buongiorno Traverso, benvenuto. Buongiorno a tutti. Com'è il traffico, tra l'altro? Abbiamo parlato con quelli, con i sindacalisti delle Corriere poco fa. Come vanno le cose a Genova? Le cose purtroppo non vanno casino. Molto bene, poi Genova in particolare. Dica. Senta una cosa, noi l'abbiamo chiamata perché voi avete chiesto un tempo di visa, deve essere pagato il tempo di visa, cioè il tempo nel quale il poliziotto impiega a mettersi la divisa e a togliersi la divisa deve essere pagato, secondo voi? Ma diciamo che il nostro sindacato è un sindacato che punta chiaramente al riconoscimento dei diritti, come gli altri lavoratori che hanno rivendicato e ottenuto, grazie alle sentenze della Cassazione, questo diritto, ovvero la remunerazione del tempo. Tempo di visa, noi riteniamo che anche i poliziotti debbano avere questo riconoscimento. Questo e voi calcolate, mi scusi, calcolate 20 minuti per mettersela e 20 minuti per togliersela. È un po' tantino. No, ma questo è un dato che abbiamo, infatti, poi nel ricorso è ben spiegata la cosa. Poi quello è oggetto poi sarà il giudice eventualmente che deciderà la tempistica. Noi non abbiamo fatto altro che riprendere dei tempi che sono già stati oggetto di riconoscimento per altri lavoratori. Tra l'altro qua a Genova, proprio dall'ospedale Gaslini, è stato riconosciuto proprio questa tempistica. Ma l'idea è farlo pagare o farlo rientrare nel tempo di lavoro, per cui si riduce l'orario di lavoro di 40 minuti? No, assolutamente no, perché i nostri orari di lavoro sono fissati da tempistiche contrattuali. È chiaro che quel tempo deve essere in qualche modo remunerato. Quindi questo è noi, ecco il segnale che vogliamo dare. Che quindi ottenere la sostanza è questa: l'obiettivo è ottenere i soldi per il tempo di visa, non far rientrare quei 40 minuti nell'orario di lavoro. L'obiettivo è quello, proprio perché è un discorso di remunerazione di quella tempistica. Noi chiaramente ci rendiamo conto in un momento come questo che l'importanza della nostra attività è fondamentale. Riteniamo pertanto che le battaglie che stiamo portando avanti su contratto, riordino e miglioramento della Polizia di Stato dal punto di vista anche dell'assetto è fondamentale. Questa nostra piccola battaglia sta proprio a significare questo, che noi siamo nel mondo del lavoro come tutti gli altri lavoratori e cerchiamo in qualche modo di far capire ai cittadini che meglio riusciamo a esprimere, a lavorare sul territorio con riconoscimento dei diritti e più riusciamo a dare un servizio più completo. La ringrazio. Grazie Roberto Traverso, non accetterò la provocazione dell'ascoltatore che dice in ufficio insistono che non posso andare al lavoro nudo e che mi devo vestire per forza e se può chiedere il tempo vestito. Grazie Mauro, non so se possa chiedere il tempo vestito. Traffico, Platero, ci sentiamo alla fine per i saluti.